tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale che apriamo con il Papa che schiaffeggia una fedele in piazza San Pietro. Invece di porgere l'altra guancia, il Papa si è lasciato andare a un gesto di nervosismo che taluni attribuiscono ad alcuni suoi problemi di salute. Ladro in sacrestia, botte da orbi al parroco. Una tremenda rapina ha colpito un parroco di Pirri, in provincia di Cagliari, e se l'è cavata con 30 punti di sutura. Abbiamo poi, finite le disgrazie anticlericali, i misfatti della Chiesa. Dall'Abruzzo abbiamo un esempio di bigottismo clericale. Non erano sposati, vietato seppellirli insieme, da Quotidiano Nazionale del 5 gennaio 2020. Mi spiace, suo padre non sposò mai la compagna Maria con cui ha convissuto e per questo non potranno essere sepolti insieme. Il solito esempio di bigottismo clericale, al massimo esempio proprio di perfidia. Abbiamo poi notiziario anticlericale vero e proprio che dalla Repubblica del 4 gennaio 2020, l'ora di religione, soltanto con docenti di tutte le fedi. L'esperimento ad Amburgo, in cattedra ebrei, musulmani, evangelici o cattolici, mancano comunque gli atei, comunque già un passo avanti, almeno rispetto a quello che avviene in Italia. Noi ribadiamo il nostro no deciso all'ora di religione, che si chiama insegnamento appunto della religione cattolica. Sempre dalla Repubblica c'è un ottimo articolo apparso il 3 gennaio 2020 a proposito della Repubblica Romana. Ricordiamo che il Papa ghigliottinatore Pio IX, fatto ingiustamente beato, e fece, oltre a ghigliottinare e fucilare moltissimi patrioti, attirò contro la Repubblica Romana l'esercito francese, quello austriaco, gli spagnoli, eccetera, eccetera. E sono usciti delle foto rarissime d'epoca, in quanto il primo reporter di guerra della storia dell'umanità, il primo fotografo di guerra, è questo signor Lecchi, che venne subito dopo i combattimenti a fotografare le ampie distruzioni che provocò l'artiglieria francese. Leggiamo qualche brano dell'articolo. Durante le vicende della Repubblica Romana del 49, uno sguardo sui luoghi dell'assedio, sul rapporto fra città e abitanti, sul difficile componimento di memorie e ferite. Il reporter inizia dal momento della caduta dell'esperimento repubblicano alla fine della Roma senza il Papa, di cui ha scritto recentemente, eccetera, eccetera. Il suo sguardo segue l'evoluzione delle battaglie, ma coglie anche la bellezza eterna che resiste ai conflitti. La versione della mostra digitale nel sito che raccoglie e qualifica la ricerca è un piccolo grande contributo alla gloriosa stagione anticlericale della Repubblica Romana. Bene, diamo poi qualche cenno al calendario anticlericale 2020 a cura di Pierino Marazzani, che comprende le rubriche detti anticlericali, clero degenerato, suicidi clericali, poesie anticlericali, vittorie anticlericali, giunto alla 29esima edizione, con 335 nuovi misfatti e disgrazie clericali. Per contrastare l'asserito effetto protettivo di preghiere, patroni e pellegrinaggi. Dio non esiste, i santi sono defunti da secoli, se non da millenni, e non possono fare niente per noi. Le disgrazie messe in questo libro, in questo calendario, dimostrano appunto che la stessa Chiesa, gli stessi papi, non sono protetti da alcuno. Il calendario ovviamente quest'anno è dedicato al 20 settembre 1870, 150esimo della fine del Papa Re. Leggiamo qualche brano, in particolare di gennaio, per esempio il 6 gennaio 1492, una suora minorenne è ritirata dai genitori dal convento del Clarisse di Tortona a causa delle turpitudini che vi avvenivano. 7 gennaio 1614, memoriale diffamatorio fra giudici dell'Inquisizione spagnola sulla questione della stregoneria. Si accusavano fra di loro di influssi demoniaci. 8 gennaio 1859, a Civita Castellana Viterbo, decapitato il criminale comune Vincenzo Lodovici per ordine del governo papale. A questo proposito ricordo che su internet potete trovare, digitando il boia del Papa, no? Proprio un PDF con tutte le condanne a morte da lui eseguite. 9 gennaio 2000, il boia si chiamava Mastro Titta. 9 gennaio 2000, si chiude a Roma una mostra di disegni erotici fantastici fatti di nascosto da un abate sardo. 10 gennaio 2018, prete denunciato ad Arezzo aveva quadri rubati in casa sua. 11 gennaio, bando del governo papale che legalizza formalmente il possesso di schiavi e schiave in Roma. Siamo all'11 gennaio 1549. Bene, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti.